A bordo campo di Dario Ricci. Tempi di pedalate in rosa, lo sappiamo bene perché il Giro d'Italia attraversa tutta la penisola, e così come vi raccontiamo tutti i giorni anche qui a Radio 24. E allora, proprio di bicicletta e di una bella pedalata parliamo oggi qui a bordo campo, ma l'obiettivo stavolta, più che trovare un unico vincitore, è quello di far vincere tanti bambini impegnati e parte integrante, parte principale di un progetto davvero importante. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 maggio tra Firenze e Limestre in Toscana per il Dinamo Bike Challenge. Che cos'è? Una gran fondo suddivisa in diverse tappe, in diversi momenti, promossa da Dinamo Camp. Per parlare di questa gran fondo e di questo progetto abbiamo ospite Alessio Tasselli. Benvenuto Alessio a bordo campo. Grazie, ciao Dario, buon pomeriggio. Alessio fa parte dello staff di Dinamo Camp, è responsabile delle attività di Oasi Dinamo, l'oasi affiliata al WWF in cui proprio è immerso il Dinamo Camp. Ecco Alessio, spieghiamo subito ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Dinamo Camp è un'associazione che è fortemente impegnata con molti bambini con caratteristiche davvero speciali, vero? Esatto, precisamente. Il camp è situato, come hai detto giustamente tu, in Toscana, provincia di Pistoia, San Marcello Pistoiese, quindi nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, ed è un camp che ospita bimbi affetti da patologie gravi e croniche. Li ospita totalmente a titolo gratuito, quindi gli offre una vacanza di 9 giorni, per cui i ragazzi vengono qui a fare attività di terapia ricreativa che permette loro di nel corso dei 9 giorni di riprendere, oltre a riprendere in possesso della propria fanciullezza, quindi di tornare qui, ridere, scherzare, giocare con i compagni, eccetera, anche proprio di riprendere diciamo la propria vita in mano, quindi di tornare ad avere la possibilità di affrontare diverse sfide, le sfide della vita e le sfide che noi stessi nel camp gli proponiamo. Anche perché Alessio, tra l'altro, queste attività outdoor e indoor, si fa anche molto sport, si fanno attività nei laboratori, devo dire che hanno spesso un'efficacia terapeutica, no? Perché non solo fanno morale, ma restituiscono fiducia e anche nell'affrontare queste sfide estreme rappresentate da queste malattie. Assolutamente, sì, hai detto benissimo, nel senso qui i ragazzi appunto vengono messi di fronte a queste sfide. Una sfida, diciamo quella per eccellenza, si può dire ad esempio il muro dell'arrampicata, sono 10 metri di arrampicata che il ragazzo si trova davanti ad affrontare diciamo da solo, anche se supportato comunque dai compagni, dagli amici, perché comunque qui c'è sempre lo spirito di collaborazione, mai di competizione tra i ragazzi, tra lo staff, si trova ad affrontare tutte queste sfide, tra cui appunto quella dell'arrampicata, che è emblema anche della sfida che ci possiamo trovare davanti nella vita, un muro di 10 metri che uno all'inizio dice non riuscirò mai a superarlo, invece alla fine ce la fa grazie al supporto degli altri, ce la fa grazie alle proprie forze, ce la fa grazie al supporto dello staff che a monte progetta le attività in modo che tutti i ragazzi che arrivano qui al camp possano affrontare certe sfide. Tra l'altro parecchio sport, dicevamo, perché terapia ricreativa in acqua, tiro con l'arco, campeggio in altura, l'attività dell'Oasi Dinamo che ben conosci, il giardino sensoriale, l'equitazione, mini fattoria, percorsi avventura, insomma li fate sudare questi ragazzi. Assolutamente tra le nostre attività principali, ecco. E anche con una radio, no? Per quanto riguarda le attività indoor, c'è Radio Dinamo che mette in onda sul web, l'indirizzo www.radiodinamo con la Y, non sbagliate, .it, anche dei programmi, dei piccoli programmi realizzati da questi ragazzi. Sì, durante le sessioni i ragazzi appunto registrano, a seconda dell'attività, registrano appunto degli spezzoni che poi vengono mandati in streaming sul web, sul sito di Radio Dinamo, oltre al fatto che Radio Dinamo è un progetto anche di outreach, ovvero raggiungere i ragazzi anche direttamente negli ospedali. Quindi i ragazzi che non possono venire direttamente al camp possono essere raggiunti con uno dei progetti outreach di Dinamo Camp, che è Radio Dinamo, che va negli ospedali e fa fare l'attività del camp direttamente nei reparti di oncomatologia pediatrica dei principali ospedali pediatrici italiani. Immagino che sia un progetto particolarmente caro a quel Linus che ha sposato davvero da vicino il progetto di Dinamo Camp. Alessio, dicevamo però che stavolta ti tocca pedalare pure a te, no? Nel senso che Dinamo Bike Challenge sabato 25, domenica 26 maggio, due tappe di questa Gran Fondo che coinvolgerà diversi cicloturisti, e sarai impegnato anche te, che ti sei dovuto reinventare ciclista, se non sbaglio, no? Sì, io diciamo che era un anno che non ero un po' fermo, non montavo sulla bici da un anno, però questa sfida che si è posta davanti l'ho presa al volo, e non farò entrambe le tappe, farò la tappa più corta, quella della domenica, che però è una tappa, insomma, abbastanza impegnativa, ma che tutti con lo spirito e il cuore della Dinamo Bike Challenge possano affrontare. Ecco, è importante perché parliamo di questa pedalata, di questa Gran Fondo, perché l'obiettivo è quello di partecipare per raccogliere anche fondi, anche soprattutto fondi per sostenere il progetto Dinamo Camp. Come si può fare? Tra l'altro so che sei impegnato in prima fila anche in questa mission, no? È molto semplice, praticamente come si dice sempre qui al camp, tutti vengono posti di fronte a una sfida. Anche questa è una sfida che viene posta di fronte a chi si vuole impegnare per il camp. E come funziona? Uno va semplicemente sul sito www.dinamobikechallenge.org, si iscrive alla corsa, alla gara che preferisce affrontare, e in più, diciamo, all'iscrizione cosa fa? Si pone un obiettivo di raccolta fondi. Quindi la novità dov'è qui? È che il singolo ciclista diventa il fundraiser, quindi il concetto di personal fundraising. Quindi ogni singolo ciclista si impegna per raccogliere una certa cifra che lui stesso si pone come obiettivo e che pensa sia in grado di raggiungere e, perché no, di superare. Come fa a raccogliere questa sfida? Con amici, parenti, quindi c'è al centro anche il concetto di aggregazione, di cooperazione. Insomma, il passaparola diventa importante anche per pedalare insieme, insomma. Esatto, sì, il concetto di aggregazione, come ti dicevo anche prima, la collaborazione qui a camp è al centro di tutte le attività, e anche in un'attività come la Dinamo Bike Challenge, avere intorno a sé persone che ti vogliono bene, che ti sostengono e che sono attaccati magari anche a progetti umanitari come quello di Dinamo Camp fa tanto, e quindi uno si può impegnare per raccogliere quell'obiettivo che vuol raggiungere e che andrà devoluto totalmente nel progetto Dinamo. Ecco Alessio, comunque hai detto che tu prenderai parte alla tappa più breve, che comunque sono una cinquantina di chilometri. Allora, adesso è vero pure che domenica 26 maggio finisce il Giro d'Italia a Brescia, e per carità sono una trentina di chilometri, non circa. Meno male, ecco, questo ci rassicura, perché mi comincia a preoccupare, perché sennò qua ti tocca fare veramente allenamento come il nostro Ivan Basso, no? Certo, no, diciamo che ho ripreso un po' gli allenamenti anche grazie appunto al fatto che io abito proprio qui sull'Appennino Pistoiese, e il percorso è molto vicino anche a casa mia, e percorrerlo è sempre un piacere, perché siamo in mezzo ai boschi d'altura, grandi visuali che si aprono in vista, insomma è un percorso fantastico, quindi fa piacere sempre percorrerlo anche per allenarsi alla corsa stessa. Tra l'altro introducete con questo progetto un esperimento, quello del partecipante fundraiser, che va per la maggiore ormai da tempo anche negli Stati Uniti, no? Dove queste Gran Fondo sono molto diffuse, proprio spesso con questi obiettivi solidaristici. Esatto, sì, il progetto è stato ripreso appunto da queste corse degli Stati Uniti, in particolare la Palm Massachusetts Challenge, che è un progetto che è nato diversi anni fa, ma che oggi, grazie al personal fundraising, quindi al singolo ciclista che insieme a amici, parenti, si impegna a raccogliere una certa cifra, raccoglie milioni e milioni di euro, tutti devoluti in beneficenza per la ricerca sul cancro e altri progetti umanitari. E allora, Alessio Tasselli, responsabile delle attività di Oasi Dinamo. Noi di A Bordo Campo non possiamo far altro che augurare a te una buona pedalata e soprattutto a Dinamo Bike Challenge di raggiungere i propri obiettivi. L'invito è quello di andare sul sito www.dinamobikechallenge.org e poi sul sito di Dinamo Camp per tutte le informazioni e anche per potersi iscrivere chiaramente a questa Dinamo Bike Challenge, a questa importante gran fondo di solidarietà. Beh, Alessio, poi facci sapere come va a finire e senz'altro, diciamo, puntiamo al podio, non proprio alla maglia rosa, che per quella domenica sarà magari sulle spalle di qualcun altro, dai. Assolutamente d'accordo, senz'altro. A Bordo Campo. Playoff del basket che sono scattati in settimana, e lo sapete, qui a Radio 24 e anche a Bordo Campo il basket ci piace parecchio, anzi vi ricordo l'appuntamento alle 20:30 ogni domenica con Palla Spicchi. E allora oggi proprio di basket e di playoff parliamo, ma da un'ottica particolare, perché si sa, lo si sa dalla lezione che si impara dall'NBA, ma anche da questa parte dell'oceano non cambia poi molto. I playoff rappresentano il momento chiave della stagione, e quindi il livello del gioco, ma anche dell'intensità del lavoro fisico, si innalza inevitabilmente per i protagonisti in campo. Allora ne parliamo oggi col nostro ospite Stefano Tirelli, collaboratore della EA7 Emporio Armani Basket Milano, esperto specializzato in tecniche complementari sportive e poi soprattutto grande amico di A Bordo Campo e di Radio 24. Ben trovato, Stefano. Grazie Dario, grazie, sono molto felice sempre di essere così vostro ospite. Allora Stefano, dicevamo, quest'anno vale la pena ricordare la tua grandissima esperienza nel mondo dello sport, dal Chelsea di Mourinho a molte nazionali del calcio africano, a partire dal grande Ghana. Questa volta sei impegnato a bordo campo del parquet da basket, con quali obiettivi specifici, proprio in vista della post season che è scattata e che presenta, come dicevamo, delle complessità particolari per gli atleti impegnati nei playoff? Ma sai, in questi casi il ritmo degli allenamenti, il ritmo a livello anche di pressione mentale è elevatissimo, perché si gioca tutto in poche partite, in molte partite ma in pochi giorni, e quindi quello che è la mia specificità nel mio lavoro, quello che tendo a fare è cercare di aiutare i ragazzi, gli atleti, a recuperare le energie fisiche e mentali nel potenziale migliore dei modi. Quindi è un po' un ritorno tra l'altro, perché proprio ho lavorato con l'Olimpia dal 91 al 96, anno poi del campionato famoso Stefanescu. Eh sì, Boscia Tanjevic e la sua banda, Nando Gentile, mi fai tornare giovane con questi ricordi. E devo dire che ritrovarmi il figlio di Nando Gentile, quindi Alessandro, devo dire che la genetica fa grandi cose. Diciamo che semplifica il lavoro degli allenatori e dei preparatori atletici. Sì, sicuramente. Per cui appunto in questo periodo con alcuni dei giocatori si lavora principalmente proprio per questo, per cercare di detossinare, per così dire, i muscoli in una chiave di risveglio muscolare, di attività muscolare molto elevata in così poco tempo. Quindi è un lavoro proprio a parte quello dei playoff da un punto di vista atletico e energetico. Tante le domande che mi vengono in mente, la prima è quella relativa alla durata, no, dei playoff stessi. Quest'anno la novità, fin dal primo turno si sta giocando al meglio delle 7 partite, come cambia questo il vostro lavoro come equipe psicofisica? Direi che il più è stato fatto da un punto di vista atletico durante l'anno. A questo punto bisogna mantenere i serbatoi quanto più possibili pieni. In quale senso? Diciamo che adesso la fase è più una fase tecnica, è più che una fase atletica quella da perseguire, per tutte le squadre parlo chiaramente, perché è chiaro che non è un lavoro prettamente della EA7, ma questo in generale, in una fase così dobbiamo perseguire la massima intensità, con un discorso invece che va a risparmiare quella che è la resistenza fisica, quindi non è più un lavoro del fondo dedicato alla resistenza, ma quanto a un lavoro di intensità, di forza esplosiva e di velocità. Bisogna essere brillanti più che resistenti. Da questo punto di vista, senza svelarci troppi trucchi del mestiere, immagino che tu non possa farlo, però illustraci un po' quali sono i lavori di base che caratterizzano una seduta d'allenamento. Ma io nello specifico direi che la cosa che è più importante in questo momento è quello che si evidenzia da un punto di vista energetico, però non energetico tradizionale. Stiamo parlando di sistemi energetici da un punto di vista complementare. Allora è questo quello che, secondo il mio modo di vedere le cose da un punto di vista atletico, può essere un arricchimento ulteriore, ma questo qua è un discorso che si fa ormai da tempo anche in ambito generale, in ambito sportivo, calcistico, è qualcosa ormai di consolidato. Ecco, un'altra curiosità che mi viene in mente: abbiamo visto tutte le big, a partire proprio da Milano, che ha inserito nel roster da poche partite Mensah Bonsu, hanno appunto aggiunto dei campioni in vista proprio della post season. Da questo punto di vista, questi giocatori come vengono gestiti fisicamente, visto che fino a questo punto dell'annata magari o erano inattivi oppure erano in altre squadre, quindi hanno lavorato diversamente. Ecco, questa addizione che problemi vi crea dal punto di vista gestionale e dal punto di vista del lavoro fisico? No, in generale non creano problemi, perché si parla di campioni che sono abituati ad altissimi livelli e ormai appunto le metodiche di allenamento risultano essere quanto più comuni. Quindi lo stesso Pops è un giocatore fortissimo da un punto di vista atletico, che si inserisce sicuramente bene in un contesto atletico e tecnico senza problemi. Non ci sono problemi, perché stiamo parlando ormai di un lavoro generalizzato che riguarda più squadre, ma all'interno di un contesto europeo il training d'allenamento più o meno è equivalente. Senti, dal punto di vista dell'alimentazione, qualche curiosità: non è che Mensah Bonsu è venuto qui con patatine e hamburger, no? Con l'idea di farsi gran scorpacciate dal Mac? No, assolutamente. Lui, da quel poco che lo conosco, è un campione, è veramente una persona che ha una capacità professionale bellissima. Lo si vede per esempio quando durante le partite è uno di quelli che riesce a stimolare gli stessi giocatori, cioè paradossalmente è l'ultimo arrivato, ma lo si vede nel caricare i giocatori, nel dare il 5 a tutti, anche a tutto lo staff tecnico. È veramente un grande campione, un grande professionista. Beh, quindi addizione importante nel roster milanese, ma anche le altre rivali non scherzano. Un'ultima curiosità, Stefano: finale, gara 7 della finale scudetto è prevista il 21 giugno, non sappiamo chi ci sarà, staremo a vedere, sicuramente farà molto caldo. Ecco, come si affronta questa difficoltà, che tra l'altro è caratteristica un po' dei playoff del basket? Insomma, ricordo finali come la celeberrima sfida tra Milano e Livorno, giocate a temperature intorno ai 40 gradi. C'è un modo specifico per affrontare questo problema così particolare? Ma allora, è chiaro che sicuramente, come tu ben dicevi prima, la parte alimentare è fondamentale in questo momento, perché l'apporto di tutti ciò che sono i nutrienti energetici puliti e leggeri, diciamo, sono fondamentali. In più però ci aggiungerei una cosa: la differenza in questi casi la fa la parte mentale. La parte mentale nell'ultima fase è quella che fa la differenza, laddove nello sport in genere, ovviamente parlo, ci sono condizioni di iperstress. Allora bisogna essere bravi a cercare di aiutare questi ragazzi e gli stessi ragazzi a gestire le loro potenzialità in questo senso. Questo fa la differenza, trovo, soprattutto la parte mentale come elemento di grande differenza. Toglimi una curiosità: più divertente lavorare a fianco di Mourinho o di Scariolo? No, sono bellissime esperienze, perché io imparo da tutti e questo fa la differenza, nel senso che da ogni esperienza mi porto dietro qualcosa e cerco di portarmi sempre il meglio. E allora, Stefano Tirelli, in bocca al lupo per questo finale infuocato di campionato di basket. Grazie per essere stato ospite oggi a Bordo Campo. La prossima volta ti vogliamo qui in studio però, Stefano. Grazie Dario, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Libera Bordocampo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordocampo, sempre sul nostro sito. L'appuntamento è come sempre per domenica prossima alle 14.30 e tutte le mattine del sabato in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.